Allora, noi torniamo a interrompere la musica di Salpinaz per tornare di nuovo così in contatto con il corteo, perché insomma, oltre in un corteo così importante ormai come tutti gli anni, ma quest'anno in particolare inserito in una giornata ricchissima di lotte, di resistenza, di contenuti, quindi insomma, oltre a descriverci il corteo, insomma, diciamo che sono tante anche le parole che porta, no? Sì, naturalmente la manifestazione di oggi, che sta tra le altre cose arrivando a Piazza Sempione, non so se eravate informati del percorso. Sì, abbastanza. Sta puntando fortemente in termini contenuti di comunicazione con il quartiere, sulle cose di cui abbiamo parlato anche in questi giorni, in particolar modo anche l'iniziativa di domani a Re Bibbia per portare la solidarietà a Chiara, che credo sia ristretta appunto Chiara, se non sbaglio, no? Sì. E quindi diciamo che la questione che ha attraversato queste ultime settimane relativamente alla repressione è molto presente. Certo, il corteo di Valerio Urbano è un corteo tradizionalmente anche in cui c'è una grande partecipazione anche intergenerazionale, sia del territorio che dell'esterno del territorio. È un momento in cui si rincontrano anche tante compagne e tante compagni che magari continuano a fare attività sociale e politica nei diversi quartieri di Roma, ma che si rincontrano magari insieme proprio in occasione di questa manifestazione, per cui ha anche questa caratteristica. In sottofondo dovreste sentire un po' di musica, ci sono stati un po' di slogan, dei fumogeni, ma in generale diciamo che è un corteo che guarda avanti. Io non so quanto si è riflettuto sulla figura di Valerio Urbano e sulla tematica dell'antifascismo, ne possiamo semmai anche parlare, nel senso che io sto cercando anche qualche compagno con cui interloquire su questo, anche perché in effetti oggi come oggi anche questo è, al di là di tutto l'affetto e anche la memoria che tutti noi abbiamo di questo percorso, uno di quei temi che con difficoltà riusciamo a articolare, no? A cui dare significato, non perché non ci siano più i fascisti, non perché non ci sia una forma di strisciante fascismo molto più diffuso, ma perché quel tipo di confronto con i fascisti organizzati che ha caratterizzato quegli anni, ha caratterizzato la vita di Urbano e purtroppo anche la perdita della sua vita, oggi è sicuramente diverso rispetto a quegli anni. No, forse potremmo parlare più di un altro tipo di fascismo, no? Quello, se lo vogliamo, insomma, chiamiamolo così, che è quello, per esempio, invece di quello che è stato il silenzio in una risposta alla morte di Valerio, no? Quello che Carla poi ha chiesto per tutta la sua vita, insegnandoci tanta forza, tanta tenacia, e che è un silenzio che poi però nella storia abbiamo rivisto in tante occasioni, tristemente, nella morte di compagni, no? La mancanza di giustizia, no? Dover portare avanti una memoria laddove appunto Carla ci ha insegnato la tenacia, abbiamo le mani di Roma città aperta, no? Quindi comunque io direi che non è esattamente poi scollato da un quotidiano di cui spesso parliamo, no? Quella diciamo, quell'autorità che ti si schianta e che crea l'ombra accanto poi invece a tanti compagni e compagne. Ovviamente io così posso dire di penso anche un po', nel senso che con tutto il rispetto per le battaglie di questi anni che hanno visto tanti compagni e tante compagne o anche tanti semplici giovani e cittadini incappare nelle maglie di un fascismo istituzionalizzato, nella maniera fascista di comportarsi della polizia, nella maniera fascista di comportarsi anche di certi comportamenti sociali, nel caso di Valerio Urbano ci troviamo di fronte a un altro. Sì, sicuramente. Un altro mondo. Certo. E la giustizia per Valerio Urbano, ma questo è solo il mio punto di vista, su questo immagino che molti dissentiranno, forse un problema di giustizia per Valerio Urbano non c'è mai stato, no? Con tutto il rispetto per Carla, cioè Valerio Urbano era un compagno, un comunista che portava avanti un suo percorso politico, anche se giovanissimo, che dentro il suo percorso politico è incappato in poteri e forze che hanno deciso di porre termine alla sua vita. È un po' diverso che morire certo, è molto diverso volante dentro un commissariato. Certo. Le due cose non si svalorizzano fra di loro, è proprio che è diverso. Certo. E anche chiedere giustizia per Valerio Verbano è, credo, è rispettabile. Io però in tanti anni, diciamo, ho cominciato la mia militanza politica personale a 13 anni a un corteo di Valerio Verbano, no, veramente no, un corteo per Roberto Scialabba, che però era morto in un'occasione molto simile, in quelle stesse condizioni. E per esempio la parola giustizia, giustizia per Valerio, non era nei nostri linguaggi. Certo. A chi dovevamo chiedere giustizia? Allo Stato? Insomma, con lo Stato non stavamo un attimino in urto, alla magistratura, alla polizia. Insomma, nel tempo la memoria cambia anche i significati delle cose. L'importante è che lo sappiamo. Questo non significa che Valerio Verbano, da questo punto di vista, non è un simbolo, è un esempio per tutti e tutte, per la sua tenacia, la sua voglia di, per la sua sete di giustizia in senso più generale. Ma certo non ce lo vedo a chiedere un'inchiesta sulla sua morte. Lo so che può sembrare un po' rude a dirlo, non me lo immagino. Tutto qua, questo magari può essere anche discutibile, ma insomma è il mio punto di vista personale, con tutto il rispetto per la battaglia per la verità e la giustizia che è stata fatta in questi anni, e però, e poi questo spiega anche perché poi non è molto difficile che si arrivi alla giustizia per questo tipo di cose, nel senso che chi la dovrebbe fare la giustizia? No, ma questo è chiaro, finiamo di salutare Chiara, quindi voglio dire, è inutile che poi ci giriamo tanto intorno, insomma. Appunto. No, questo era, okay. Insomma, comunque il corteo è molto bello, a parte tutti questi discorsi così pesanti, ci sono un mare di bandiere notab, c'è anche tutto il quartiere affacciato, e questo è un bel segnale, nel senso che in tantissime stanze, mentre arriviamo a Piazza Tempione, sono alla finestra, curiosi che guardano, la gente per strada, la gente che si ferma, insomma è un bel segnale, nonostante il momento difficile, è un bel segnale, è un'altra tappa di questo percorso, perché credo, no, è stato ribadito che questo percorso è un percorso che coglie l'occasione di una manifestazione tra virgolette commemorativa, senza con questo volerla sminuire in nulla, per rilanciare le lotte, le battaglie in questi giorni, in questi mesi stanno portando avanti. Io mi sono allungato anche tanto, per cui mi sembra che, dimmi tu. Vabbè, sì, insomma, comunque mi sembra di capire che il corteo è arrivato a Piazza Sempione. Sì, sta proprio arrivando a Piazza Sempione, quindi sarà ancora lungo, perché se ho capito bene ritorna a Via Montebianco, se ho capito bene, ma tu forse ne sai di più. Beh, io pensavo si fermasse a Piazza Sempione, comunque appunto adesso chiariremo, allora, anche questo. No, magari si ferma a Piazza Sempione, come vi ho detto qui tanti vecchietti si incontrano e passano anche il loro tempo a salutarsi, a raccontarsi le cose, per cui poi finisce che magari neanche ti informi di dove finisce la manifestazione. Va bene, grazie. D'accordo. Mille. Ciao. Ciao.